24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:31 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua. Buongiorno, 24 mattino in diretta fino alle 9. Subito il nostro sondaggio di oggi che potete votare su radio24.it. Una norma nella manovra: torna la mininaia, o meglio arriva la mininaia. Che cos'è? La possibilità per i giovani da 18 a 30 anni di fare volontariamente 3 settimane nell'esercito. La mininaia, volontari. Che ne pensate? È una misura che il ministro La Russa vuole per favorire l'avvicinamento da parte dei giovani anche al mondo dell'esercito e delle forze armate? Siete favorevoli? Votate su Radio24.it, ne parleremo alle 8:30. E ora, come di consueto, andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali in edicola. In primo piano. In questo venerdì 16 luglio sono due i temi che trovate sulle prime pagine dei giornali nel giorno dell'approvazione della manovra, vale a dire un po' di economia e la manovra, appunto, e poi il tormentone politico, l'inchiesta, la P3 che coinvolge la politica ma anche fortemente la magistratura. Le aziende chiedono crediti, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, l'appello del governatore di Banca Italia Draghi. Banche solide ma devono essere più vicine alle imprese. Anche per il Corriere: le pensioni cambieranno così. Approvata in Senato la manovra da 25 miliardi, agevolate le piccole imprese, nuova imposta municipale. Mentre l'attualità tra l'attualità giudiziaria e politica sugli altri giornali: per Repubblica P3 inchieste sui giudici, La Stampa P3 si indaga sui magistrati, per Libero la cricca dei giudici. Questi alcuni titoli di giornali, e vorrei proprio partire da qui, cioè la vicenda P3 che sta travolgendo la magistratura. Secondo Repubblica, pagina 4, nomine e missioni proibite, una rete di 20 toghe, erano 20 almeno i magistrati a vario titolo citati nell'inchiesta a disposizione della loggia. Ci sono le foto di Giacomo Caliendo, il sottosegretario, Antonio Martone, presidente della Commissione Trasparenza del ministro Brunetta, viene anche definito, Alfonso Marra, il presidente della Corte d'Appello di Milano, Angelo Gargani, vicino a Pasquale Lombardi, il procuratore di Napoli capo, Giovan Domenico Lepore, Giuseppe Grechi, ex presidente della Corte d'Appello di Milano, invitato da Lombardi. Lombardi è uno degli uomini chiave. Arcibaldo Miller, il capo degli ispettori del ministero. Vincenzo Carbone, ex primo presidente della Corte di Cassazione, parlava con Lombardi. Lombardi, come detto, è una delle persone arrestate, una delle persone chiave. Allora, addirittura pagina 3, Francesco Viviano su Repubblica dice: mentre un palazzo di giustizia, quello di Napoli, accusava Cosentino in passato di avere legami con la Camorra, c'era un altro palazzo di giustizia, quello di Salerno, dove il regista e consulente giuridico del dossieraggio, quel dossier finto contro il presidente della Campania Caldoro, veniva incredibilmente curato nell'ufficio del presidente della Corte d'Appello di Salerno, Umberto Marconi. Così scrive Repubblica, lo hanno scoperto i carabinieri di Roma intercettando l'ex assessore della Regione Campania Ernesto Sica e l'imprenditore Arcangelo Martino coinvolti in questa vicenda. Ebbene, Sica, definito coordinatore di questo dossier a luci rosse contro Caldoro, si consultava con Marconi, il presidente della Corte d'Appello di Salerno, in varie intercettazioni. Sono qui, sono nell'ufficio del magistrato, ci stiamo organizzando per quella situazione, quando ci possiamo vedere? Nell'ufficio di un magistrato gli incontri sul dossier anti Caldoro. È l'ufficio del presidente della Corte d'Appello di Salerno, Marconi, secondo Repubblica. Beh, davvero questa vicenda assume i contorni dell'incredibile anche per il Corriere. Processo a Marra. Marra è il presidente della Corte d'Appello di Milano, il cui nome compare insieme a quello di altri magistrati nelle intercettazioni dell'inchiesta P3. Lunedì deciderà la prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura l'atto di incolpazione per il trasferimento d'ufficio del presidente della Corte d'Appello di Milano. Ora tutti ricordano quella nomina, come fu una nomina sorpresa, una nomina che il Corriere ricorda fatta sul filo dei voti, 14 voti per Marra contro 12 dell'altro candidato Renato Rohrdorf. Sul Giornale, per esempio, difende questa situazione chi? Michele Saponara, che fa parte del CSM. E che dice: ma guardate, le raccomandazioni, le telefonate per dire votate uno invece che un altro, ogni candidato le usa, c'è anche chi fa regali. Beh, questo è una missione incredibile da parte del responsabile di uno dei rappresentanti, membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Saponara. Confermo e rivendico di essere stato uno degli sponsor di Marra. Pensavo e penso tuttora che abbia tutte le qualità per fare bene il presidente della Corte d'Appello. E poi in questa intervista, appunto, al Giornale dice: io non voglio liquidare la faccenda dicendo così fan tutti, ma è un dato di fatto che Alfonso Marra non è stato il primo a chiedere raccomandazioni. Di pressione al CSM ne arrivano ogni giorno per ogni nomina, dalla più importante alla più defilata, un'ira di Dio, da destra, sinistra, al centro. Per la presidenza della Corte d'Appello di Milano, una carica importante, c'erano indicazioni sostenitori sia dell'uno che dell'altro candidato. Il procedimento contro Marra è figlio del rancore di chi ha perso. E lo stesso Marra parla. Lo fa solo con Libero. Riesce a intercettarlo, bisogna dire proprio intercettarlo, non nel senso delle intercettazioni che pensate voi, ma intercettarlo fisicamente, Gianluigi Nuzzi. A pagina 2 di Libero: mi allontanano perché non faccio favori o cose strane. Alfonso Marra esce dal tribunale con in tasca il Fatto, una copia del Fatto. Scruta Guardingo, l'interlocutore, non per diffidenza personale, ma perché è fatto così. Ogni volta che lo incrocio da 20 anni, dice Nuzzi, mi dà sempre la stessa idea. Lo inseguo al bar. Lei è del Fatto? Mi chiede Marra. No, presidente, di Libero. E ti guarda, ti scruta, sempre con le mani in tasca, i capelli arruffati, che non capisci se magari per una notte insonne o una sentenza non digerita. Stava con la lingua in bocca con tutti, sa? Taglia i convenevoli così Marra. Scusi, di chi parla? Come chi? Il capo della presunta loggia, quel Pasquale Lombardi. A me lo presentò l'ex presidente della Corte d'Appello Giuseppe Grechi. Lo vedevo insieme a Grechi, insieme al presidente della Cassazione Carbone. Ma chi lo sapeva che era un delinquente? Ma il caso secondo lei si sta aprendo o si è chiuso? Per me non c'è alcun caso, dice Marra. Io sono stato eletto presidente perché avevo un curriculum a prova di bomba. Già 15 anni pubblico ministero, presidente di tribunale, presidente di sezione. Qui inizia, racconta Nuzzi, un elenco di 5 minuti 5 di tutto il suo curriculum. È stato montato un caso, ma loro prima o poi la smetteranno. Loro chi? Presidente Marra, quelli che non mi vogliono qui. Questa storia finirà perché le intercettazioni sono chiarissime. Quando iniziano a chiedere favori io li caccio, quando propongono sotterfugi o cose strane io dico andatevene. Marra è così. Faccia un sondaggio in tribunale, mi chiede, veda quanti stanno dalla mia parte. Quanti? Tutti o quasi? Vedremo i conti alla fine. Gianluigi Nuzzi dice di questo colloquio, e mi rimane colpito quella frase: loro la smetteranno. Quel loro certo mi colpisce. Insomma, i magistrati però sono nel mirino. Ora questa inchiesta sta puntando molto ai magistrati, tanto che Carlo Federico Grosso, che è un avvocato, un noto penalista, ma è anche un ottimo editorialista per La Stampa, fa un editoriale proprio a dire: il giudice va a cena da solo. Questo è il titolo di Carlo Federico Grosso. Ricordo che mio padre mi diceva che ai suoi tempi era regola indiscussa che il magistrato non dovesse essere commensale abituale di coloro nei confronti nei quali amministrava la giustizia. Non doveva coltivare relazioni sociali, aver rapporti di interesse. Altra regola sentita: il magistrato doveva esprimersi solo con atti processuali, non doveva esibirsi, rilasciare interviste, parlare dei suoi processi fuori dalle sedi processuali. Ulteriore regola di prudenza: mai il magistrato avrebbe dovuto utilizzare la notorietà comunque acquisita con i suoi processi per tentare la strada di carriere parallele, politica, ministeri, uffici studi dei partiti, qualunque altro luogo. Insomma, Federico Grosso dice: può darsi che questa idea di magistrato sia antica, fuori dal tempo, ma le sconcertanti vicende della cronaca giudiziaria di questi giorni, fanno pensare che davvero è cambiato tutto. magistrati nel mirino e politica, politica nel mirino che si interroga, questa valanga giudiziaria dove ci porterà? Cosa succederà? In Campania, per esempio, ancora non si è placata la vicenda, le dimissioni di Cosentino da sottosegretario all'economia, ma mantiene il ruolo di coordinatore del PDL in Campania. E tra l'altro su tutti i giornali vedrete oggi delle foto che sono di manifesti che sono comparsi nella provincia di Napoli, manifesti anonimi. Forza Cosentino, siamo tanti, siamo con te. Il Riformista lo sbatte addirittura in prima pagina. L'anonima del PDL a Napoli vuole Nicola. Notte tempo, Napoli è stata tappezzata di manifesti Forza Cosentino, anche se nessuno se ne vuole attribuire la paternità. E Goffredo Buccini del Corriere della Sera, che ieri ha fatto uno straordinario ritratto di Cosentino, oggi cosa fa? Va da Caldoro, il presidente della Regione Campania, in quello che a pagina 13 viene definito un colloquio difficile, informale, non è una vera e propria intervista, però parla un po' con Caldoro, colui che appunto ha subito questo dossieraggio falso per screditarlo, dandogli di colui che andava a trans, veniva definito il ricchione, il culattone, questo nei colloqui tra Cosentino e Lombardi e l'ex assessore Martino. Ebbene, Caldoro l'offeso, con Cosentino non finisce qua. E Caldoro esordisce così: fa venire in mente la vecchia barzelletta di Totò su quel tale che, preso a ceffone e insultato per sbaglio, se la ride beato. E che io so Pasquale, governatore, azzardiamo, lei in realtà è proprio Pasquale in questo caso. I ceffoni parevano diretti proprio sulla sua faccia. No, guardi, io sono l'esatto contrario, qua decido io. E finché decido resto, se poi perdo la partita vado via. E ancora dice: guardi che non finisce qua, ci sono dinamiche interne, legga le dichiarazioni sui giornali, qua nessuno è sicuro di poter andare avanti. Anche lei quindi, presidente, ma io finché decido resto. Il mio problema più grave è la sanità, ci sono tanti problemi in Campania. Poi si parla appunto di questa frase, senta, ma la definivano il culattone, il ricchione, lei non ha paura che questo appellativo le rimanga comunque attaccato addosso? Ecco qui Caldoro: guardi, non penso che i napoletani credano a questa roba. Poi stia a sentire, a inizio campagna mi chiamavano il Frocetto, sempre Cosentino. Cosa fai, smentisci? Se smentisci la comunità gay ti dice: perché, che c'è di male? Quasi quasi non ti resta che dire sì, è vero. Sai, io non voglio dare letture forzate a battute di cattivo gusto, ma certo, se uno è intercettato dice delle mostruosità. Sta di fatto che Caldoro dice: contro di me trame, interessi deviati, c'è chi vuole abbattere il mezzogiorno, sempre questa idea del complotto, i servizi. No, guardi, non è un complotto, Stato è una parola troppo grande, direi piuttosto che ci sono delle cose deviate, interessi deviati. Questo Caldoro. Intanto la politica si interroga: che succederà? Ci sarà la crisi, non ci sarà la crisi? Marco Reguzzoni, il capogruppo della Lega alla Camera, in un'intervista al Sole 24 Ore a Lina Palmerini a pagina 17 dice: nessuno interessa a una rottura, non ci sarà la crisi. Il ministro Frattini in un'intervista al Corriere dice: il partito però va riorganizzato, no alle correnti, io lancio ancora l'idea del coordinatore unico, io non lo farò perché sono ministro degli esteri. Alla domanda: allora aspetterà Maria Stella Gelmini? Perché questo è quello che si vocifera. Dice: i nomi sono la conseguenza di un percorso, ma è niente di più sbagliato che parlarne adesso. Il ministro Calderoli fa un'intervista a Repubblica e dice: sembra tutto un film di Tognazzi questo caso della P3, ma li vedete, chiamano Cesare, forse Cesare e Berlusconi, chi lo sa, proprio Tognazzi, stiamo cadendo nel ridicolo. E riguardo al governo di larghe intese, ancora la Lega dice: ma che larghe intese, ma che casini, o si mettono d'accordo Fini e Berlusconi, o se si dovesse arrivare a una conta, le urne, le elezioni. D'Alema, che invoca un governo di transizione, mi sembra il vecchio democristiano e parla come De Mita. In tutto questo che succede? Dov'è Tremonti? Se lo chiede il Foglio. Dov'è Berlusconi? Se lo chiedono altri giornali. In primo piano. Come mai il sapiente Tremonti non c'è mai quando la casa brucia? Questo è il titolo dell'editoriale di Salvatore Merlo sul Foglio. A dire Tremonti si muove felpato, modi orientali, sapienti, è sempre presente, ma allo stesso tempo quando conviene sa essere assente. Abilissimo a non essere mai tirato in ballo, stanato, neanche dai quotidiani, Tremonti è destinato a incarnare l'uomo misterioso della legislatura. Dov'era Tremonti mentre Fini e Berlusconi si mandavano a quel paese alla direzione nazionale del PDL? Era lì, ha parlato, è stato militante, ma non si è fatto notare, non ha preso parte. Dov'è adesso? Cosa pensa in questi giorni di tramestio del governo nella maggioranza del suo partito? Come si muove? Quando la casa brucia, il superministro non c'è. Non è un pompiere nel PDL in fiamme, ma non è neanche nel novero degli incendiari. Si dice che trami contro Letta, che il Cavaliere lo voglia mettere alla prova. Bossi è più amico tuo o amico mio? Anche nel giorno in cui si approva la manovra, Tremonti riesce a sparire. Ieri, chiesta anche di un commento dell'affare Cosentino, se n'è andato via dicendo non rispondo come non ho risposto ieri. Insomma, si chiede il foglio Tremonti che pensa, non si sa, è un mistero. Quando serve essere presente è presente, ma quando serve essere assente è assente. Berlusconi invece, confermando quello che Libero scriveva un paio di giorni fa, cioè che pensa alla piazza il 27 luglio, spare una manifestazione a favore della legge sulle intercettazioni, ma soprattutto lunedì ci sarà il gran concerto in Piazza del Duomo, un concerto per una manifestazione organizzata per salvare proprio il Duomo stesso, per aiutare a raccogliere fondi per il Duomo, e Berlusconi sarà in piazza, sì, canterà con Charles Aznavour. Berlusconi se la canta. Questo è il titolo di apertura del giornale. Inchieste, dimissioni, liti interne, intercettazioni, situazione difficile, ma il premier andrà a esibirsi sul Duomo di Milano con Aznavour. E fa bene, dice il giornale. Soprattutto la notizia che riguarda Berlusconi, che io, insomma, spesso Libero ci azzecca, e quindi ci azzeccherà anche stavolta. Sembra quasi una butadda, invece viene sparata in prima pagina, le taglie di Silvio su chi lo spia, e viene messo Berlusconi anche in veste da sceriffo in un ritratto. Berlusconi, secondo Libero, ha messo, guardate, sembra una barzelletta ma non lo è evidentemente. Berlusconi è stanco delle spie, cioè di fare queste riunioni, il Consiglio dei Ministri, e poi il giorno dopo di leggere i virgolettati sui giornali veri o presunti di quello che è successo in queste riunioni. E allora che cosa ha fatto? Berlusconi ha messo una taglia, ha offerto 3 milioni di euro, ha promesso 3 milioni di euro, 3 milioni di euro a chi scoprirà, chi nella sua cerchia ristretta va a spifferare tutto ai quotidiani. E in più ha messo 5 milioni di euro sui delatori di Palazzo Chigi. Cifre da paura. La caccia è aperta. Si è scatenata già la corsa ad accaparrarsi il duplice malloppo che il premier avrebbe già depositato in un apposito conto corrente bancario. Silvio mette la taglia sulle spie del PDL e Barbara Romano che ne parla a pagina 8. Ripeto, sembra una barzelletta, ma evidentemente, non lo so, sarà vero? Non lo so. Intanto trovate molto poco sui giornali della vicenda del Piemonte, del TAR, perché nella notte il TAR, come abbiamo sentito in GR24, ha deciso di far ricontare una serie di voti che potrebbero riportare all'annullamento delle elezioni, un procedimento che si vedrà poi nei prossimi giorni, la riconta di alcune liste legate al presidente eletto Cota, per vedere se ci sono stati dei voti disgiunti, insomma se questi 9.000 voti di scarto che hanno portato alla vittoria di Cota possono essere in qualche modo inficiati da qualche irregolarità, e dunque si presume anche ipotizzare il ritorno alle urne. Riguardo la politica, cito solo una cosa, pagina 9 del giornale, l'auto blu al mare, figuraccia per il moralista dell'Italia dei Valori, il capogruppo dell'Italia dei Valori al Senato, Felice Belisario, secondo il giornale, secondo Gabriele Villa, è stato pizzicato, anzi secondo anche la Gazzetta del Mezzogiorno, vicino a Policoro, in Basilicata, l'auto blu fermata dai carabinieri, ma sull'auto blu assegnata al senatore Belisario non c'era lui ma c'erano altre persone. Ecco qui il moralista, figuraccia per il moralista dell'Italia dei Valori, secondo il giornale. Oh, è stato il giorno della manovra, come detto, il Sole 24 Ore vi dedica ampio spazio. Tra l'altro sul sito del Sole 24 Ore c'è anche il maxi emendamento, la manovra la potete trovare tutta, quella approvata ieri con 170 sì e 136 no la fiducia al Senato. Dino Pesole ne parla a pagina 5 e tra l'altro questa battuta di Tremonti, fiducia da fiducia, fa capire Tremonti che anche a Montecitorio entro il 29 luglio molto probabilmente si replicherà il copione al Senato, del Senato riguardo alla fiducia. Riguardo alla manovra c'è un giallo secondo il Fatto Quotidiano che lo mette come apertura di prima pagina, 8 milioni di poveri e lui salva Geronzi. Che cosa è questa vicenda che viene raccontata solo dal Fatto? Da Giorgio Meletti a pagina 3. La vicenda sarebbe quella di un emendamento approvato e messo lì all'ultimo momento nella manovra, all'articolo 48, proposto dal senatore del PDL Cosimo Latronico, un testo incomprensibile per i comuni mortali che in pratica stabilisce che non si applicano i reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta alle operazioni fatte da un'azienda già in dissesto finanziario, cioè all'interno delle cosiddette procedure concorsuali. Fin qui la logica di rendere più spedite e agili le operazioni dei manager chiamati a gestire i crack, ma secondo alcune interpretazioni di chi ha contrastato questo emendamento, questa norma, questo misterioso comma sarebbe stato inserito per salvare soprattutto il presidente delle generali Cesare Geronzi. Salva manager, in Senato torna l'emendamento, questa è l'interpretazione del Fatto che vi dedica molto molto spazio, lo mette in prima pagina. Come dire, siamo in rapida chiusura, c'è molto, trovate sul Sole 24 Ore, ve lo posso solo segnalare, sulle banche italiane, sulle banche, l'appello anche di Draghi di stare vicino alle aziende, alle piccole e medie imprese che tentano di agganciare la ripresa del commercio internazionale. Segnalo solo in chiusura che cosa? Che incredibilmente trovate ancora paginate sul caldo. È una notizia, d'estate fa caldo, evidentemente per i giornali, la Stampa, tutte le volte ci sono le 10 cose da non fare. Oh, incredibile, sì, non bevete alcol, non camminate al sole, geniale questa, non camminate al sole, non trascurate i bambini e gli anziani, bevete molto, non parcheggiate al sole, parcheggiate all'ombra. Vabbè, mi fermo qui con le cose da non fare, non solo perché il tempo è finito, ma perché anche, ecco, magari dedicare pagine di giornale a cose più interessanti. Non parcheggiate al sole, mi raccomando, che fa caldo, è estate. Alle 8:18 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta 24 mattino con la nostra Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci Deborah. Buongiorno. Parcheggiato. Io ho deciso. Ho parcheggiato sotto il sole, ho seguito tutti i tuoi consigli. Io sono basito di queste paginate. Cercherò di bere acqua, in misura sufficiente acqua, oggi. E anche c'è questo consiglio, siccome fa caldo: vestitevi leggeri. Certo. Ma mettete un bel cappottone, Guarda, so che poi è assurdo raccontarlo, io lo raccontavo prima al telefono anche al nostro Luca Dondi, che è l'ospite di questa mattina, analista del settore immobiliare di Nomisma, adesso lo salutiamo, che può sembrare assurdo a chi ci ascolta, ma noi a volte in certi momenti in questi uffici abbiamo persino freddo perché l'aria condizionata viene sparata a 2000 e quindi viviamo questo conflitto eterno, che però non vogliamo certo sensibilizzare chi ci ascolta su questo problema. Parliamo invece dell'investimento nel mattone, caro Alessandro, stamattina, perché tra poche ore, precisamente alle 12, viene presentato a Bologna il secondo rapporto Nomisma 2010 sul mercato immobiliare italiano. E allora questa mattina gentilmente ci hanno concesso alcune anticipazioni sui risultati di questa ricerca, perché alle famiglie italiane interessa sempre capire dove va questo mercato e soprattutto interessa capire se è tornato il momento per investire nel mercato residenziale, in particolar modo il settore commerciale e gli spazi per le attività di impresa stanno vivendo ancora un momento difficile. Ma dove va il mercato residenziale? Luca Dondi, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi. Allora, vorrei ricordare, ma i nostri ascoltatori lo sanno bene perché facciamo diverse trasmissioni su questo settore, che il mercato immobiliare italiano ha avuto le sue difficoltà negli ultimi 3 anni, ma per fortuna non ha subito alcun tracollo come invece è successo in altre economie dell'Europa, in Spagna, in Gran Bretagna in particolare, anche se qualcuno dice non è che sia esattamente una buona notizia perché magari i prezzi fossero scesi ancora per darci l'opportunità di acquistare. Ma le chiedo i dati più rilevanti del rapporto rapporto che pubblicherete oggi, Dondi. I dati più rilevanti raccontano di una difficoltà che continua dal punto di vista sia delle compravendite che dei prezzi. Il mercato è adesso in una fase di stagnazione, probabilmente riconducibile al mancato sgonfiamento che in Italia non è avvenuto, come ricordava lei, a differenza di quanto è accaduto nella maggior parte dei paesi europei. Proprio questo mancato sgonfiamento ha determinato una difficoltà, un impasse che è legato alle difficoltà di accesso al credito per molte famiglie e che quindi fanno sì che la situazione attuale sia una situazione di stagnazione, dove i prezzi calano molto poco, nell'ordine dell'1%, e le compravendite, seppure c'è stato qualche segnale timido di ripresa nel primo trimestre, faticano a risalire rispetto ai livelli minimi toccati nel 2009. E che erano leggermente al di sotto delle 600.000 peraltro, e ricordo invece qual è stato l'altro grande dato record in termini di numero di compravendite, le 845.000 del 2006. Quindi lei lo definisce un mercato ancora in stagnazione, non in stabilizzazione, Dondi? È un mercato, mi si passa il termine, paludoso, nel senso che fatica a trovare una via di uscita rispetto a una situazione di crisi che perdura e che probabilmente caratterizzerà il mercato fino alla fine del 2011, quindi segnali di ripresa evidenti, rimbalzi non sono all'orizzonte, si andrà avanti almeno 12-18 mesi in una fase di stabilizzazione progressiva, ma adesso le difficoltà sono ancora evidenti per quanto riguarda sia i prezzi che le transazioni. Le 13 grandi città che monitorate, lo voglio ricordare, sono Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Venezia, città e mestre. Ci sono delle differenze rilevanti fra le diverse aree, Dondi? Non significative, c'è un calo generalizzato, ma è un calo piuttosto contenuto, c'è una sostanziale tenuta dei valori in alcune aree che vanno fatto registrare una flessione più marcata nei semestri precedenti. Milano ad esempio cala molto poco, cala dello 0,4%, che è un dato medio tra la sostanziale tenuta del centro e le difficoltà maggiori che si registrano in periferia. Il dato di Torino è un dato, se vogliamo, in controtendenza, perché è un dato di leggerissima crescita in un panorama comunque di flessione. Ci sono difficoltà invece a Venezia, ad esempio, soprattutto nella parte periferica, il calo raggiunge quasi il 2%, come a Genova, dove il calo probabilmente è il più marcato tra le aree che noi monitoriamo. Una delle ragioni della, chiamiamola così, perché Luca Dondi l'ha definita in qualche maniera così, situazione di stagnazione che vive il mercato immobiliare, è stata determinata negli ultimi anni anche dal fatto che chi ha una casa naturalmente era disposto a venderla, a rimetterla sul mercato, voleva evidentemente farci anche un prezzo importante che mantenesse quel trend di crescita delle quotazioni che si è registrato negli ultimi anni, a partire dalla fine degli anni 90. Adesso invece quale atteggiamento hanno i venditori, Dondi? Sono disposti a concedere uno sconto maggiore sulle vendite? Questo è vero, in periferia per la media mercato non è così, il venditore è più consapevole, quindi si avvicina al mercato con una pretesa inizialmente leggermente inferiore rispetto al passato, però il prezzo di riserva va quello che è disposto a concedere alla fine della trattativa, è sostanzialmente in linea con i valori di mercato. Questo testimonia una contrazione leggera dello sconto, ma una sostanziale invarianza dei prezzi. Consideriamo anche un tema che sembra essere sempre più attuale, perché anche i governi negli ultimi anni hanno cercato di proporre delle politiche di incentivazione fiscale appunto per gli immobili ad elevata qualità energetica, ad elevata efficienza sotto il profilo energetico. C'è interesse da parte delle famiglie su questo segmento di investimento, Dondi? C'è un moltissimo interesse da questo punto di vista, perché molti sostengono di essere interessati all'acquisto di immobili efficienti da un punto di vista energetico. Questo poche volte però si traduce con una disponibilità a pagare di più rispetto alla media degli immobili che invece non presentano caratteristiche di questo tipo. Per dare una percentuale, in media ci si dice disposti a pagare circa il 5% in più rispetto a quello che costerebbe un edificio in condizioni diverse rispetto a un edificio efficiente. Questo non è sempre sufficiente per accedere a questo tipo di mercato. Molte famiglie non hanno ancora i mezzi e le risorse finanziarie per l'acquisto della casa, hanno difficoltà ad accedere al credito e quindi devono rivolgersi al mercato degli affitti, al mercato della locazione. Questo che situazione sta vivendo? Altrettanto difficile, ci aspettavamo un maggiore passaggio dalla compravendita alla locazione proprio in ragione delle difficoltà che si incontrano entrano ad accedere al mercato della compravendita. In realtà così non è stato, le famiglie rinviano l'investimento piuttosto che affrontare un mercato della locazione che in fase critica ma che continua a presentare valori piuttosto alti. Questo ha portato a un attendismo piuttosto che a una scelta temporanea in locazione. È difficile, per fare una conclusione, Dondi, rispetto a tutta l'analisi che abbiamo fatto questa mattina, poter dire quando questo mercato, quello del mattone italiano per le famiglie, quindi in particolar modo il residenziale, ripartirà con convinzione. 2011 dicono molti osservatori, lei mi pare di capire che ha spostato questo termine alla fine del prossimo anno. Sì, sposterei alla fine, lo legherei indissolubilmente al credito. Ci sono segnali positivi di un aumento delle risorse erogate per singola transazione. Il problema è l'allargamento della base a cui viene concesso il mutuo, per cui è lì che sta il punto per la ripartenza del mercato. Dobbiamo allargare i criteri per consentire l'accesso a una fascia superiore di domanda per quanto riguarda l'accesso al credito e non solo limitarci ad aumentare la quota che viene concessa al singolo mutuatario che viene ritenuto nelle condizioni di poter essere solvibile. Evidentemente un mutuatario che ha le condizioni, appunto le garanzie tali per poter avere una cifra più alta. Dondi, grazie, buon lavoro per oggi, l'appuntamento per voi è a Bologna appunto per la presentazione del secondo rapporto Nomisma per il mercato immobiliare, sul mercato immobiliare. Buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Arrivederci. Alessandro, eccoci. Questa settimana tante economie, Spagna, Grecia, quelle un po' a rischio, insomma in difficoltà, hanno organizzato tante aste di titoli di Stato, sono andate tutte molto bene. Oggi analizziamo un po' quello che è successo questa settimana. Bene. A Salvatore. Devo abbassare il condizionatore? No, questa mattina è perfetta la temperatura, come al solito. Poi sai cosa ce l'ho soprattutto? Col caldo percepito. Tu cosa percepisci? Percepisco che se è caldo, cioè chiamalo come percepito, ti pare. Il caldo percepito. Infatti è curioso, uno dal guardavo... Senegal lo percepirà diversamente da uno della Lapponia, no, i 30 esatto, gradi. No, però infatti è curioso, perché se sono 30 gradi, però teoricamente però percepisci 40. 46, esatto. Probabilmente per uno del Senegal 30 gradi lo percepisce. Vado come... a bere la mia dose di acqua quotidiana. Ti Vabbè, saluto. Grazie. Noi parliamo di Mini Naia. Arriva la Mini Naia, la possibilità per i giovani di fare 3 settimane volontarie nell'esercito. Lo prevede anche la manovra. Chi i critici dicono ma sono soldi buttati per far giocare ai soldatini i nostri giovani, mentre chi è a favore dice è un modo per avvicinare alle forze armate, ai valori delle forze armate, i nostri ragazzi. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora nel nostro sondaggio di oggi parliamo di Mini Naia, così è stata definita. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. La Mini Naia è un progetto voluto fortemente dal ministro La Russa, il ministro della difesa, è stato previsto nella manovra finanziaria, si sono stati stanziati 19,8 milioni di euro per i prossimi 3 anni per organizzare appunto che cosa? 3 settimane di addestramento volontario per giovani tra i 18 e i 30 anni che vogliono così provare l'esperienza, avvicinarsi alle forze armate, fare queste 3 settimane di appunto volontariato. La Mini Naia, secondo alcuni è una cosa positiva, secondo altri è uno spreco di risorse. Ne parliamo, che ne pensate? 800 24 00 24 per intervenire in diretta, i vostri messaggi al 349 238 6666. Ma siccome è il nostro sondaggio di oggi, soprattutto vi invito a votare su radio24.it, dove per il momento prevalgono gli scettici, il 70% di no. Allora, ne parliamo con 2 esponenti politici, il senatore Sergio Divina della Lega, fa parte della Commissione Difesa del Senato. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei. Eccoci qua. Saluto anche il senatore, ma anche il generale Mauro Del Vecchio. Generale, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senatore del Partito Democratico. Vi invito però ad ascoltare, voglio partire da lui, da uno che l'ha provata, questa Mini Naia, Matteo Lanaro, 22 anni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Di Udine, lei l'ha provata dove, in che corpo? Io nel corpo degli alpini, siamo stati dal 14 al 25 settembre del 2009. Però tengo a precisare una cosa, che sì, diciamo Mini Naia, un nome un po' così ribattezzato dai giornalisti, prettamente si chiamerebbe Progetto Pianeta Difesa, ecco. Quindi come si chiama? Progetto? Pianeta Difesa. Progetto Pianeta Difesa. Vabbè, Mini Naia, sa, noi per fare i titoli sui giornali dobbiamo sì, trovare degli slogan. Ma anche il ministro, cioè, perché non le piace Mini Naia questa? Ma perché Mininai evoca qualcosa del passato che attualmente, diciamo, è in sospensione, no? Invece il progetto Pianeta Difesa è stato tutta un'altra cosa. Mm. E com'è? Perché l'ha fatto lei? 3 settimane? Beh, allora innanzitutto io devo precisare perché era partita col corpo degli alpini, no? E allora devo dire che siccome io ci tengo alla mia storia, praticamente tutti i miei avi avevano prestato servizio sotto il corpo degli alpini. Mio bisnonno aveva fatto la guerra, la prima guerra mondiale sotto il corpo degli alpini. Mio nonno ha fatto la campagna di Grecia, Albania e di Russia, è stato ferito, sempre ritornato in patria come reduce del corpo degli alpini, anche lui. Mm. E quindi diciamo era una tradizione che volevo portare in qualche modo avanti, perché sennò andava persa ed era un peccato. Mm. Senta, e così ho colto questo caso. Ha fatto questo, ecco. Ci spieghi, cioè, che si faceva in queste 3 settimane? Si viveva a stretto contatto con i militari, si faceva, immagino, la loro vita, no? Esattissimo, è vero, abbiamo seguito i ritmi della caserma, abbiamo vissuto a stretto contatto con i militari lì a San Candido. E, beh, di attività ne abbiamo fatte tante, perché oltre a marciare ci hanno fatto anche degli assaggi di arrampicata, ossia abbiamo arrampicato in seconda, poi abbiamo fatto delle lezioni di autodifesa, delle lezioni così di orientamento. Diciamo le attività sono state tante, però quello che mi preme a me far capire un po' a tutti quanti è che questa esperienza è molto bella non solo perché c'erano ragazzi da tutta Italia, quindi diciamo un'occasione di scambio culturale con ragazzi che sennò sì, minimamente uno avrebbe avuto modo di interfacciarsi, sì. Ma poi senta, dire anche sa le critiche che ci sono state sui giornali oltre a Mininaia, qualcuno ha detto ma cosa sono i giovani Balilla, tornano i giovani Balilla, questa è stata una critica molto molto dura, no? Per esempio infatti, ma l'ho sentita e anche mi sono messo a ridere, perché io inviterei tutti quanti quelli che criticano a venire a provare questa bellissima esperienza, perché come le dico, nella fatica si diventa tutti uguali nella fatica, allora come le dico si superano tutte le distinzioni e si sente tutti uniti. Allora capitava spesso che quello della Sicilia ti desse una pacca sulla spalla per farti andare avanti, o il nostro stesso sergente diceva voi dalla prima squadra dovete arrivare tutti quanti in cima al monte che era previsto per la giornata, ed autorizzo io quelli dietro a dare calci nel sedere a chi si ferma. Mm. Questo diciamo è una cosa che capita raramente nella società di oggi, perché generalmente uno tende ad affossare l'altro, perché l'altro diciamo viene visto come un nemico, invece qua abbiamo grande solidarietà provato. Insomma, lei porta, mi sembra di poter capire, una bellissima impressione di questa esperienza. Rimanga con noi, adesso le voglio far ascoltare cosa ne penso i nostri esponenti politici, ma politici e non solo, perché voglio parlare dal generale Mauro Del Vecchio, uno che lei è bersagliere, credo. Sì, Del Vecchio, sì. Sì, sono bersagliere, ho vissuto, non sono militare come lei ha precisato, ho vissuto nelle forze armate direttamente per 43 anni. No, ma ha ricoperto anche carichi, voglio dire, internazionali, si può dire così, cioè ha comandato le forze armate, le in Kosovo, nei Balcani, in Afghanistan nel 2005-2006. Certo. Ecco, mi pare di aver capito che lei è fortemente critico nei confronti di questa cosa. E perché? Ha sentito lo spirito anche molto, sì, molto entusiasta. Lo naturalmente esprimo nei confronti del giovane tutto il mio apprezzamento per questa sua voglia e questo suo desiderio di tramandare delle tradizioni di famiglia. È una cosa importantissima di cui mi compiaccio evidentemente, ma non è certamente, a mio modo di vedere, attraverso questa partecipazione per 3 settimane ad un corso di questo genere che si possa ottenere questo spirito che si tramanda. Per me il provvedimento è un provvedimento inutile e sotto molti aspetti inopportuno. Inutile perché la vicinanza e il sentimento dei giovani è già molto forte nei confronti delle forze armate, ma è un sentimento che nasce da quello che le forze armate hanno fatto in questi ultimi 20 anni, la solidarietà che hanno espresso, la capacità operativa nei vari teatri operativi. E quindi credo che non sia certamente attraverso questo corso di 3 settimane il veicolo per aumentare questo consenso, che è altissimo. Sappiamo perfettamente che le forze armate sono sempre ai vertici del rispetto nella scala delle istituzioni nazionali. Ma soprattutto mi sembra di poter dire che chi, come molti giovani, intendono praticamente perseguire questi principi hanno migliaia di opportunità. Vorrei ricordare le scuole militari, dove si va a 15 anni, oppure le accademie, oppure addirittura per i meno giovani l'accesso diretto ai gradi da ufficiale, oppure la riserva selezionata. Quindi praticamente è già esiste una enorme serie di opportunità che consentono, cioè, questa di avvicinare. Le sembra poco seria questa? Mi sembra, non voglio esprimere poco seria, mi sembra inutile, ripeto, questo termine, e soprattutto, se mi consente, inopportuna per particolari momenti che stiamo vivendo di grande difficoltà finanziaria italiana. Mi sembra assurdo veramente dedicare delle risorse a questa iniziativa. Cioè questi 20 milioni di euro. Sentiamo, mi faccia sentire cosa ne pensa il senatore Divina della Commissione Difesa del Senato, come ha detto della Lega. Senatore Divina, lei invece è favorevole perché questi 20 milioni di euro stanziati in questo momento di crisi per un'iniziativa che il generale Del Vecchio critica molto? Ah, guardi, mentre parlava il giovane che abbiamo ascoltato, io ho detto ogni commento ulteriore può essere superfluo. Partiamo dal concetto, insomma, se guardiamo le spese, noi cosa dovremmo chiudere? Scuola, università e tutto quello che costa oggi, perché la situazione finanziaria e economica del paese direbbe che bisogna andare contro periodi di grandi restrizioni. Ogni cosa che tu fai costa. Il problema è Del Vecchio l'ha impostata, non serve a nulla, ma bisogna capire qual è il fine. Non serve a nulla per preparare soldati. Tutti capiamo che in 3 settimane tu non formi un militare, non formi un soldato, non formi soprattutto una persona da contestualizzare nell'esercito, che ormai è diventato un esercito professionale il nostro. Però diciamo, quei giovani, classe 84 e poi, che non hanno potuto fare il militare, che non hanno potuto, dico questo, e hanno espresso in mille situazioni e occasioni questo rammarico di non aver avuto questa opportunità. Dunque, la risposta viene data appunto da una domanda, che era una domanda di poter accedere in ogni caso, di poter capire qual è la vita, qual è... Ma se uno vuole può accedere nell'esercito adesso, basta che fa domanda. Benissimo, allora mettiamola anche in questo senso. Se uno non ha le idee chiarissime, dice perché devo fare un FP1, un FP4, perché dovrei fermarmi un anno o 4 anni a fare il militare, se poi magari non è proprio la cosa che io pensavo, non è proprio quello che insomma la mia aspirazione. Queste 3 settimane servono anche da, diciamo, mettiamola così, prova per una ferma eventuale futura, ma non la vedo nemmeno come propedeutica a poi a entrare professionalmente nell'esercito. Cioè un'esperienza formativa. Che i giovani la stanno chiedendo, e allora noi si è trovata la formula, e la questione del Balilla non c'entra niente, è tutta una grande sciocchezza, nel senso che siccome arriva da un ministro che forse ha avuto precedenti in una formazione politica che si rifaceva magari alla prosecuzione di quello che fu quelle politiche anche militar civili che incarnò il fascismo, non c'entra assolutamente niente. Allora la gente ha pensato prima perché è volontaria, secondo perché uno ci va perché ci crede e perché ha piacere, terzo io dico costa relativamente, è un costo organizzativo, perché i ragazzi insomma sostanzialmente vengono ospitati in caserma, ma se poi vogliono tenere il loro abbigliamento eccetera, la divisa se la devono pure pagare, per cui i costi per capito ma senatore qualcuno ci dice in maniera forse provocatoria, ma ci sono i boy scout, ci sono i campi estivi, cioè sembra quasi un campeggio, un qualcosa di ma la differenza è proprio questa, che nell'esercito c'è un sistema autoritario. I nostri giovani purtroppo, l'ultima generazione non ha conosciuto, perché nella scuola ormai non è così, sono i ragazzi che impartiscono ai docenti cosa devono fare, cosa non devono fare, nell'esercito le cose girano in un altro modo, è verticistico, c'è un sistema di ordine, di comando, l'ordine, l'autorità non si discute, e ai giovani io dico non fa male vivere 3 settimane questo è il punto sul quale vorrei ripartire tra un attimo dal generale Del Vecchio dopo il traffico. Intanto lei, senatore Divina, anche lei alpino, mi sembra di poter dire. Sì, io sono un alpino sono artiglieri di montagna, perché se lei dice un artigliere di montagna è un alpino, c'è una mezza offesa, perché c'è anche una gerarchia all'interno dell'esercito. Artigliere di montagna, eccoci. Allora, prima andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi vorrò partire da qualche ascoltatore e dal generale Del Vecchio qui a capire, insomma, ecco, un po' di ordine e disciplina ai nostri giovani non fa male. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, ci stiamo chiedendo, questa mini Naya, come è stata ribattezzata dai giornali, cioè la possibilità per i giovani dai 18 ai 30 anni di fare volontariamente 3 settimane nell'esercito per un approccio così col mondo delle forze armate, è una cosa positiva oppure no? È giusto oppure no? Sentiamo qualche ascoltatore. 800 24 00 24. Giovanni da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Salve, io sono un tenente in congedo del primo reggimento bersaglieri, adesso mi occupo di tutt'altro, dopo l'esperienza militare mi sono laureato e quindi adesso mi occupo di editoria. Che ne pensa? Voglio dire che in quanto tenente io addestravo i ragazzi che arrivavano in caserma e in tre settimane il ragazzo non riesce nemmeno a capire bene dove è arrivato, cosa deve fare, che deve già andare via. Mi ricordo un pochettino un'iniziativa, un film di Renato Pozzetto, Scuola di Sopravvivenza, ecco, a questo siamo dice, più o meno arrivati. Beh, guardi, io credo che la razza non sia molto insegnare i rudimenti, ma proprio dare questo, no, come ci diceva il senatore Divina, cioè dare un approccio, visto che non c'è più la leva obbligatoria, uno che fa? Magari cerca di capire se quel mondo lo può interessare, no? Da questo punto di vista... Avevo anch'io questa esigenza, infatti feci il corso AUC e mi sono fatto un anno e mezzo, ma in 3 settimane francamente mi sembrano veramente un assaggio, una degustazione di un qualcosa che poi sicuramente non un si po' farà. Estemporanea. Va bene, grazie Giovanni, voglio andare alla provincia di Vicenza da Francesco, buongiorno. Francesco. Buongiorno. Dica. Senta, sono anch'io un ex ufficiale, sono un ufficiale in congedo, un tenente in congedo, quindi... Parlo, diciamo, per avere anche fatto il servizio. Guardi, ho sentito l'intervento del ragazzo che ha partecipato l'anno scorso alla prima esperienza di pianeta che è ancora di con noi. Ho sentito parlare di solidarietà. Poi ho sentito parlare il senatore, se non sbaglio, Divina, che ha parlato anche di disciplina. In più, dal mio punto di vista, abbiamo bisogno anche di consentire ai giovani di recuperare un senso dello Stato. Insomma, mi sembra di capire che lei sia favorevole, insomma. Sì, esatto. E quindi ritengo che iniziative di questo genere, non tanto da un punto di vista addestrativo, che chiaramente è un periodo di tempo molto limitato e non credo che abbia efficacia appunto in questo senso, però in realtà dal punto di vista di avvicinare a certi valori che secondo me si stanno perdendo, che abbiamo bisogno di recuperare, questo serve. È un'iniziativa insomma che ritengo sia va giusta. Bene, la ringrazio. Generale Del Vecchio, ha sentito anche l'ascoltatore, appoggia quello che dice il senatore Divina, da questo punto di vista insomma un po' di disciplina, ordine a questi giovani che certi valori non li hanno più, ecco, almeno può servire questo tipo di... Mi permetta di osservare che i giovani che perseguono quei principi di ordine, di solidarietà, di disciplina, evidentemente, come dicevo prima, hanno la possibilità di svolgere questa attività in maniera diversa. La leva durava un anno, i volontari in ferma prefissata di un anno allo stesso periodo, quindi c'è comunque quella possibilità. Probabilmente invece quelli che non gradiscono questi principi, che sono principi basilari, ben si guarderanno dal poter fare domanda di partecipazione ad un corso di questo genere. Ma quello che voglio dire è che, torno a ripetere, a me pare che questo provvedimento sia soprattutto assurdo nella situazione in cui stiamo vivendo. Non ci possiamo permettere di disperdere risorse in una forza armata, in delle forze armate in cui purtroppo tutti abbiamo convenuto che c'è necessità di dare maggiori risorse. Cioè questi 20 milioni di euro lei avrebbe dato? Sono evidentemente una cifra limitata, ma dobbiamo considerare che le nostre forze armate, che stanno operando in tutto il mondo, lo fanno anche con una scarsità di risorse veramente drammatica. Quindi è chiaro che a questo punto bisogna, se vogliamo essere veramente seri, se vogliamo essere attenti alla situazione del nostro paese, dobbiamo anche guardare questi piccoli aspetti. Ma lei la leva obbligatoria la rimetterebbe? Io ho vissuto per tanti anni con la leva obbligatoria, ha costituito un momento importante della nostra vita italiana. sicuramente ha dato delle risposte eccezionali. In questo momento però l'impegno del nostro paese, la politica internazionale, la necessità di intervenire nelle aree di crisi hanno indotto, credo a ragione, chi doveva decidere a cambiare e andare sull'esercito professionista. Io vorrei tornare dal nostro Matteo Lanaro, eccoci qua, ho fatto un po' ascoltare tutto. Intanto poi avrò una domanda per lei che viene anche dal nostro Peter, che è il nostro tecnico, che anche lui è alpino, ha fatto l'alpino. Innanzitutto volevo condividere appieno quello che ha detto sia radioascoltatore di Vicenza che il senatore della Lega. Sì. Poi vorrei fare un appunto al generale, no? Attenzione, l'appunto al generale del vecchio si metta sull'attenti. Questi non sono soldi buttati via, ma è un investimento che lo Stato fa per i giovani. Perché, come le voglio precisare, io ho visto tanti giovani arrivare lì senza sapere niente di regole, perché la scuola non insegna più niente, e sono costretti a rispettare tutta una serie di regole. Alla fine dei 15 giorni, sa che molti sono andati via piangendo, perché i giovani chiedono questo, che qualcuno gli trasmetta valori. E io volevo dire, ho raccolto tutto in un libretto, e colgo l'occasione anche per dire che se c'è un editore in ascolto si faccia avanti, perché nel libretto ho raccolto tutto. Intanto voglio dire, Lanaro, non so se generale, l'appunto al generale non si fa. Questa come no, ma io adesso deve arrivare l'appunto ancora, perché ha detto che uno ha modo di aspetti un attimo, la carriera militare. Volevo dire che ho provato a fare il concorso per entrare in accademia e sono stato scartato perché è troppo vecchio per 22 giorni. Questa è stata un'occasione per me, non solo per portare avanti la tradizione, ma anche per conoscere il mondo militare, che altrimenti... Però tra poco vengo alla critica, perché è una domanda generale, vuol rispondere all'appunto? Sì, niente, intanto non c'è nessun appunto. Io sono stato insieme ai giovani, come dicevo, per 43 anni, con cui ho avuto sempre un rapporto eccezionale, anche in momenti di grande difficoltà operativa, quindi naturalmente comprendo il giovane e, ripeto, lo ammiro per i principi di base. Dico soltanto praticamente che l'insegnamento di questi valori importanti di solidarietà, di democrazia, non va fatto in un settore oppure in un reparto militare, va fatto nella società italiana. È un discorso che deve abbracciare tutte le componenti. Ecco, questo è un discorso diverso. Sì. Allora, Lanaro, è vero, le devo fare questa domanda, lei ha fatto 15 giorni, ha fatto queste 3 settimane, ha portato a casa il cappello degli alpini con la penna? Sì, ma ce l'ha consegnato tra le mani il generale Primiceri. Questa cosa era stato sudato in 15 giorni, anche se solo 15 giorni, però era stato sudato. Non le posso, siamo in radio, Lanaro, non le posso far vedere lo sfogo del nostro tecnico Peter quando lei ha detto l'ho sudato. Insomma, il cappello degli alpini si suda, lui ha fatto l'alpino e dice no, questa storia del cappello che ce l'ha non mi va giù. Io adesso racconto che il cappello mi ha dato l'opportunità di accostarmi anche all'Associazione Nazionale Alpini. Io saluto Manlio Boccolini, che è il capogruppo di Cividale Centro, la sezione di Cividale. Il cappello, a parte che fare un anno, 15 giorni, bisogna vedere come lo si fa l'anno, perché se uno sta seduto in poltrona tutto l'anno, meglio fare 15 giorni, ma 15 giorni questo sudati. Sì, ma non penso che il nostro Peter gli sia stato permesso di stare Peter, un anno in, generale, in poltrona. Per carità, Peter magari è stato uno di quelli che ha fatto tanto. Io si do una risposta in generale, per carità. Comunque questa cosa che lei ha il cappello dopo 15 giorni un po' l'ha fatta un po' arrabbiare. Ma sa che devo dire che il cappello mi ha dato l'opportunità di avvicinarmi a questo mondo della solidarietà. Io devo ringraziare gli alpini, perché sono da ammirare, perché dove non arriva lo Stato ci sono sempre loro a dare una mano, questo un conforto che ha bisogno. Questo è vero. E dico, il cappello io me lo sudo tutte le occasioni possibili, perché vado a dare una mano al gruppo di Cividale Centro. Ho fatto la colletta alimentare, sono stato a prestare servizio in altre occasioni e dico, io è vero, non ho fatto un anno, però me lo sudo giorno per giorno col cappello, perché mi ha dato una grande opportunità anche di accostarmi a questo mondo del volontariato e di persone che si spendono gratuitamente, a differenza di pseudo volontari che invece sono pagati, si spendono gratuitamente per gli altri. Va bene, insomma, io vorrei concludere con il senatore Divina. Eccoci qua, senatore, ha sentito? Sì, io ho un aereo. Ma guardi, noi chiudiamo tra un minuto e mezzo. Molto bene. Ma io vorrei dire, le obiezioni di chi, diciamo, si dichiara contro sono contraddittorie, perché si sostiene che 3 settimane sono poche, non servono sostanzialmente a insegnare, a trasmettere nulla, e allo stesso tempo che costa troppo, eccetera, eccetera. Ma allora, quando ci sono anche i tagli alle forze armate, questo c'è, cioè, le forze armate professionali in Italia. Ma se noi invece che 3 settimane facessimo 3 mesi, indubbiamente i costi sarebbero un tantino più alti. Per ridurre i costi dovremmo ridurre il tempo. È chiaro che è un compromesso questo, per poter portare questi giovani dentro le caserme e vedere cos'era la naia e vedere cos'è la disciplina di caserma e capire cos'è un minimo, è stato parlato anche di senso dello Stato. Ma i nostri ragazzi oggi c'è la tendenza a spiegare molto più cosa sono i diritti. Ecco, in caserma si impara innanzitutto cosa sono i doveri, e io credo che per la formazione di un giovane è giusto mantenere questo equilibrio. I giovani devono conoscere perfettamente i propri diritti, ma devono sapere anche che in una società e nella vita poi gli aspetteranno tante situazioni, le più diverse, sì, dove è importante capire anche un po' di disciplina, capire anche che in i certe doveri. Situazioni bisogna rispondere a un senso di doveri, insomma, che fa parte un po' dell'educazione. Benissimo, io mi devo fermare. Al mio amico e collega Del Vecchio, dico, è una persona squisita, siamo tutti e due in commissione di difesa. Se Del Vecchio lo spogliassimo dal fatto di essere uomo anche del Partito Democratico, lui ragionerebbe in altro modo. È chiaro che c'è la dialettica, ma guardi, non lo so senatore, su questo devo dire che abbiamo cercato, anche abbiamo avuto il conforto di alcuni pareri ieri di militari che magari sono anche in Parlamento nel centrodestra, e che hanno detto, ma insomma, su questa iniziativa non so se mi voglio proprio esprimere, quindi non credo che sia una questione tanto politica. Comunque vi ringrazio per essere stati tutti con noi. Il 67% ancora dice no a questo progetto, ma votate su Radio24.it. Ringrazio Sara Spirafico in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, anche Carmelo Lauricella, che ora si alterna con Oscar Giannino e Alpino. Siamo tutti alpini qua, no? Io no. Vi ringrazio, do la linea a Oscar Giannino, ci sentiamo lunedì.